Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città del Capo, siamo rientrati noi di 451 frammenti sonori, ovviamente trasmissione legata alle sperimentazioni musicali, alla ricerca sonora, qualche volta lo dico, cerco di ricordarmi un po' questo spot che spesso abbiamo utilizzato all'ingresso delle trasmissioni, alle volte può essere anche un po' ridondante, ma va bene. Dico per me va bene, ma forse per te meno, cosa dici? No, dove sei? Sono uno scantinato. Sì, ecco. Infatti sono tornato. Mi avevi fatto anche un po' di paura, devo dire la verità. Sono i miei giochini al mixer, faccio un po' il cretino. Vabbè. Comunque frequenze Radio Città del Capo, lo ricordiamo ancora, 96.25 e 94.7, 451 frammenti sonori, dunque rientra al solito orario alle 23.30 circa e rotte, e ovviamente divideremo anche stasera la puntata in due spezzoni, prima del GR di Radio Popolare Network che partirà intorno a mezzanotte e mezza, per poi rientrare l'una meno 10 fino alle 2 inoltrate per la seconda parte. E stasera che cosa affronteremo? Stasera abbiamo pensato, poi in realtà una parte, la prima parte, l'inizio di un percorso conoscitivo, anche esplorativo, rispetto a un periodo storico, e l'abbiamo intitolata appunto Esperimenti Italiani negli 80, prima parte. Prima parte perché affronteremo poi altre due parti più specifiche a livello musicale. Stasera lavoreremo sulle sperimentazioni wave, con anche chiaramente inserimenti industrial, ma anche di tante altre colorazioni che hanno attraversato, diciamo, la wave italiana nei primi 80, ed è un percorso che ci sta coinvolgendo non soltanto sul piano musicale da un po' di tempo, ma anche su vari filoni. Studiare il periodo storico italiano, che è stato abbastanza tumultuoso e particolare tra la fine del 70 e inizio 80, sia sul versante cinematografico e quello artistico, poi intrecciato a quello politico, quello musicale, ci sembrava azzeccato iniziare ad analizzarlo. Abbiamo cercato di portare avanti una griglia iniziale stasera, la riporteremo in avanti ancora per altre due trasmissioni, ovviamente articolandole poi volta per volta su delle specificità che puntano a costruire un vero e proprio nodo, un nodo centrale, ovviamente che sarà sicuramente poi parziale, perché di roba ce n'è ancora molta da esplorare, però è un tentativo, no? Sì, un tentativo che è piuttosto particolare, come appunto diceva Eliseo Scarpa. Sì, Scarpa. Non ci siamo nominati, va bene, allora il caro Max Macchia sta parlando. Vabbè, ma adesso mi hai nominato, sono più sollevato. Ok, scusa. Non ti dico da che parte del mio corpo. Va bene. Italia, in particolar modo questa sera, Esperimenti Italiani, gli 80, una faccenda piuttosto gravosa, perché finiva sicuramente una stagione anche molto importante, quella della sovversione, vogliamo chiamare così, sia musicale che chiaramente politica, non c'è bisogno di dirlo, o forse c'è bisogno, e in questo senso qua sicuramente gli 80 risultano sia come conseguenza diretta di quei tumultuosi 70, ma anche come una sorta di cesura rispetto a quel decennio, vuoi per una fortissima repressione, anche censura, se vogliamo, repressione politica, censura poi artistica, culturale, rispetto a quello che si era elaborato appunto nel decennio scorso, e vuoi per un allontanamento, una sorta anche di, potremmo definirlo quasi isolazionismo, o così di gioco a perdere che molti wavers nei primi anni 80 proprio sperimentarono, se è la parola giusta, sulla propria pelle, e effettivamente poi il malessere di queste situazioni è piuttosto sentito, e lo ascolteremo musicalmente anche, magari virato in chiave bruttista, come diceva prima Eliseo, quindi in chiave industrial, o virato in una chiave, e anche lì c'entra anche questo discorso di isolazionismo, oppure virato in una chiave assurdista, ovvero si gioca sulla morte sociale, su un impazzimento della società, su una spettacolarizzazione che vorrebbe tutti deficienti, contenti e tutti a fare gli anticonformisti di un conformismo che non esiste neanche più. La normalità, come dire, è una faccenda che non c'è più, ma perché c'è la moda, e la moda degli anni Ottanta è tremenda in Italia, perché appunto ti dice di cambiare tutti i giorni per non cambiare poi niente. Hi-Fi Bros, e poi appunto i discorsi continueranno in questo senso. Perché ci incalzano, è una materia per noi piuttosto calda e forte, dunque è naturale che si... Sì, anzi, sicuramente, diamo due avvertenze su questa trasmissione. Sicuramente non uscirà tutto quello che vorremmo dire, ecco, su quel periodo, perché sono veramente tante le cose che in questi anni abbiamo riflettuto di quell'epoca, e poi anche per una difficoltà proprio anche di esprimere, di catalogare ancora l'incatalogabile, perché infatti, per tanti aspetti siamo ancora negli 80 e non soltanto perché c'è grande revival di quel periodo lì. E poi un secondo aspetto, le registrazioni, e quindi i file che sentirete o i CD eccetera eccetera non hanno una qualità particolarmente eccelsa, perché infatti sono stati recuperati da cassette, addirittura vinili malconci, e insomma tutte quelle diavolerie che ancora nei primi anni 80 c'erano come supporto musicale. Hi-Fi Bros, e poi dopo ci lanciamo. Sì. Smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, smoke, sm sixties and kisses. Conosciuta, deformata e assolutamente detonata, Strangers in the Night. Prima abbiamo ascoltato pezzo splendido che apriva i fratelli Hi-Fi, ovvero Hi-Fi Bros. 1981, succedeva una cosa quasi incredibile per il paese italiano, perlomeno in quel momento storico, ovvero Arton Lindsay e Ike Mori, due dei DNA, venivano a Bologna, si innamoravano anche di Bologna, anche perché appunto scoprirono questi due pazzerelloni di Hi-Fi Bros e gli produssero il disco, oltre che suonarci dentro. E si sente come un suono no wave che prende spunto appunto da due grandi dei DNA e che un po' anche attraverso la sapiente costruzione dell'Italian Record e quindi di tutta una scena che non era soltanto bolognese ma che circolava soprattutto qua, stringeva anche dei contatti internazionali e soprattutto in una città come Bologna, quella di appunto quasi 30 anni fa, cercava di dare ancora uno spazio vitale a quello che era ancora un'alternativa, se non addirittura un antagonismo, vissuto a quel punto musicalmente, ma poi anche per certi versi ancora in maniera sicuramente molto più ridimensionata rispetto agli anni 70, però ancora vitale rispetto alla piazza, rispetto quindi a una situazione politica che ancora cercava di dare i colpi di coda, e colpi di coda che tra l'altro furono anche particolarmente violenti, proprio perché la situazione si stava veramente rendendo particolarmente difficile proprio per situazioni underground, situazioni perlomeno alternative, visto che stava incalzando appunto quello che poi sarà il baudismo, non so come chiamare, lo spettacolarizzazione insomma della domenica in italiana, che appunto porterà poi a far morire buona parte di queste esperienze o farle rimanere sotterranee, per poi negli anni 90 anche farle rinascere sotto certi aspetti. E quindi Hi-Fi Bros rappresentano un po' quella sorta di zoccolo duro che ancora Oderzo Rubini con la sua Italian Record riesce a far funzionare, come anche e un po' congiunge quella incongiungibile forse in quel momento, ma poi in realtà come attitudine c'erano delle ben salde affinità, appunto quelle newyorkesi, quelle con Arton Lindsay e i Ike Mori dei DNA. E parlando ancora di Bologna, rimanendo a Bologna, troviamo un'altra formazione indubbiamente importante per questo periodo, i Confusional Quartet, che inizialmente avevano il nome di Confusional Jazz Rock Quartet ed era una formazione che nasceva più sul versante jazz rock, e in realtà iniziò il proprio percorso nel 1979, per chiuderla addirittura nell'81, dunque un'attività molto breve, solo 3 anni di attività musicale, ma una formazione estremamente interessante, costituita da Luigi Ardito al basso, Gianni Cuoghe alla batteria, Enrico Serotti alla chitarra e Marco Bertoni alle tastiere. Un gruppo che non aveva voce, lavorava a livello strumentale e fondamentalmente lavorava su un fattore proprio confusionale dell'aspetto musicale, basandosi su un jazz ma piuttosto assurdo, malato, con chiari riferimenti appunto a delle dimensioni che poi viaggiavano anche in Inghilterra e in America nei primi anni 80, ci ricordano certe esperienze anche assurde di Residence o altre formazioni di Ivo. E infatti qualcuno li definiva come dei divo italiani, perché si presentavano ai concerti con vestiti di tutte bianche industriali. E appunto la cosa anche interessante è che parteciparono come gruppo, insieme a tanti altri gruppi della scena del gran bolognese dell'inizio degli anni 80, a un famosissimo happening concerto che era dalle cantine all'asfalto, tenuto proprio al Palasport all'inizio degli anni 80. Una formazione assolutamente da godere insieme, in questo senso. Due brani che abbiamo selezionato, uno XXX e il secondo che lavora invece con un chiaro accenno al futurismo, e questo non ci fa che piacere rispetto a tutta una serie di puntate che abbiamo portato avanti sulla musica futurista. Tra l'altro non beccano soltanto il futurismo, con XXX vanno anche a sondare un territorio che all'epoca era ancora piuttosto scabroso, soprattutto in Italia, ovvero la pornografia. E dunque è un gruppo, adesso che ce lo godiamo insieme, ce ne saranno tanti ancora, infatti dovremmo anche un po' velocizzare perché il tempo ci magna. Il tempo è tiranno, anche qualcos'altro è tiranno, mi sa. Confusional Quartet, dunque, formazione bolognese, rimaniamo in una Bologna che forse molti non conoscono a livello musicale, che abbiamo piano piano recuperato stasera, in parte poi. Confusional Quartet. È un grande movimento anticulturale di idee. Orgoglio italiano, la religione della velocità, della novità, dell'originalità. L'avvento dei giovani al potere contro lo spirito parlamentare, burocratico, accademico e pessimista. Thank you. Confusional Quartet dal loro splendido, unico poi tra l'altro, l'EP. Siamo nei primissimi anni '80 di quella Bologna ancora infuocata, seppur forse ritornata dentro le cantine, quindi un ritorno forse insperato, anzi senza il forse, che però si riaccendevano in quel momento di grande creatività, ridando anche luce e dando anche la possibilità per un attimo, che è durato veramente pochissimi mesi, che ancora si potesse sperimentare in Italia, quindi avere dei linguaggi comunque alternativi, ma o se non addirittura antagonisti, diffusi, piuttosto diffusi. In realtà poi la faccenda durerà veramente molto molto poco. La stessa Italian Record e ad esempio prendendo sia il caso di FI Bros, ma anche di quella di Confusional Quartet, si arriva a una sorta di ridimensionamento di questo attacco al linguaggio musicale, sia per quanto riguarda FI Bros, che dopo un splendido appunto esordio con il loro mini LP, poi di fatto si sono dati a una sorta di dance, anche se brillante, eccetera eccetera, ma comunque con sicuramente un retrofont musicale rispetto a un disco così esplosivo come il mini iniziale, i fratellini Hi-Fi. E Confusion Quartet invece rimasero pochissimo in vita, quindi si sciolsero, e molti destini di quella Bologna anche andarono un po' a intrecciarsi. Molti si diedero a una sorta di dance music, seppur, come mi ripeto, abbastanza illuminata, e altri appunto si dispersero e così fecero perdere anche le tracce che poi si sono ritrovate in questi ultimi anni tramite ristampe, un interesse crescente verso una scena che sembrava veramente sepolta e quasi murata dentro una sorta di cimitero impossibile delle musicalità alternative italiane. Non c'erano soltanto gli inglesi con il loro meraviglioso post-punk, c'era anche un linguaggio italiano piuttosto particolare, e giustamente insomma sono stati anche ricalibrati i termini anche di una possibile dialettica tra le due scene, perché in effetti poi di scena italiana si tratta. E tra l'altro, appunto, andando a trovare un altro piccolo gioiello di quegli anni, ci spostiamo da Bologna, per un attimo l'abbandoniamo, poi la riprendiamo magari nella seconda parte, e andiamo invece vicino alle partiture, caro. Ma no? Insomma, la zona non è che mi piace molto, però comunque, è vicino alle partiture. Vabbè, vicino, sì, Bassano del Grappa, sì, Veneti. Comunque, al di là di questo, è vero che c'è stato di nuovo un, diciamo, un interesse a riprendere qualcosa dei materiali che stasera stiamo cercando di riportare un po', no? Una sorta di puzzle, piccoli pezzi, e dare un senso logico, anche storico, a quel fenomeno che è stata la wave italiana. Però è anche vero che moltissimi, l'abbiamo detto all'inizio, dei materiali che stasera metteremo in onda hanno una pessima qualità, perché un'altra cosa che abbiamo notato, non casualmente, è che moltissimi materiali legati a questi progetti non sono stati ristampati in CD, per cui molti di questi lavori sono proprio in vinile originale, dunque con tutti i limiti, i glitch, le cose, gli scricchiolii, e qualcosa addirittura da cassetta, per cui è vero in parte, ecco, alcuni gruppi, alcuni dischi più importanti o più famosi sono stati ristampati, ma moltissimi, e lo ritroveremo anche nelle parti successive, dei lavori splendidi che sono rimasti su vinile, nessuno li ha ristampati più. Qualche piccola etichetta uscita di qualche reduce di quegli anni, negli anni 90, ha riprodotto, parlo soprattutto dell'MP Records, un'etichetta che, con cui ho avuto anch'io personalmente a che fare, si è messa a ricercare, ecco, Central Unit, appunto, a ricercare i vecchi materiali, a ristamparli, anche a editarli, a metterli apposta a livello di suono, però sono casi veramente limite, isolati, ma per spiegare quanto di quel periodo, non soltanto politicamente, socialmente, ma anche artisticamente, musicalmente, si vuole continuare a tenerlo molto molto scuro, perché è un periodo assolutamente decisivo in una storia italiana. Ecco, sì, piccola digressione che ho voluto, ha voluto un cappello che ho voluto inserire. Adesso, parlando invece di Frigider Tango, appunto formazione Bassano del Grappa, ha avuto una storia a livello di stampe ufficiali molto breve. Nasce nell'inizio degli anni '80, il primo disco è The Cock, il secondo è proprio Frigider Tango omonimo, un 12 pollici che andremo proprio ad ascoltare, nell'83 è uscito, poi una raccolta nel 2006 come storia dei Frigider Tango, un ultimo lavoro che è uscito nel 2009 proprio della stessa formazione. Oltretutto il nome ricorda anche una famosissima rivista che aleggiava appunto negli anni 70 e primi 80, che insomma era legatissima a tutta una scena di movimento e dunque alla controcultura italiana, appunto, sì. Dunque anche questo è un altro riferimento giusto che lo facciamo. Andiamoci a sentire dunque dal 12 pollici omonimo Frigider Tango dell'83 un brano che riteniamo molto molto interessante, perché è una wave molto spostata, anche molto molto aperta, vicina sia a quella inglese ma anche a certe cose nella wave americana. Frigider Tango, cari.

e da un concerto, come sentite appunto nel sottofondo, un brano molto potente sia sulla parte ritmica, con queste chitarre estremamente aperte, dunque estremamente interessanti nel loro modo di porsi dentro una wave sicuramente molto originale, molto personale da parte dei Frigider Tango. E dai Frigider Tango andiamo a trovare una formazione che a livello di nome, anche di concerti, è abbastanza conosciuta, abbastanza nell'ambito underground, ovviamente. Sì, forse per una maggiore durata in termini di carriera, cioè Detonazione, è iniziato appunto il loro percorso di Bruno Romani, poi in particolar modo, visto che era un po' la mente della faccenda Detonazione, iniziata nei primi anni 80 e si è chiusa ben al di là di quel decennio, arrivando appunto un bel po' più in là rispetto a molti invece progetti che questa sera proprio sono nati e sono rimasti in piedi per una giornata, però una giornata decisamente importante, una giornata che si è voluto, come dire, oscurare, si è voluta così sotterrare, e noi giustamente ce le riprendiamo, ce le rivendichiamo anche certe giornate, magari un po' burrascose per alcuni e felici invece per altri. Certo. Detonazione da sorvegliare e punire, non è un caso che un disco dell'83 si chiami così, richiamando il grande maestro Michel Foucault, e poi un altro pezzo da Riflessi conseguenti, veramente due gioielli di percorsi musicali di Detonazione, dentro appunto due vinili splendidi. Poi dopo sì, forse ci riusciamo a infilare anche un altro pezzo, oppure Radio Giornale, e per chi non è sintonizzato in diretta e quindi sul blog, probabilmente un'altra piccola parte di MP3, così facciamo anche, sì, diciamo, diamo il nome anche del blog per coloro che vogliono avere o risentire le trasmissioni che abbiamo registrato, le ultime trasmissioni, sentirle e anche il catalogo, diciamo, della scaletta dei brani, dei dischi a cui abbiamo tratto poi i progetti inseriti nella trasmissione, 451 frammenti sonori punto no blogs punto org. Org, sì. Ecco, poi lo ripeteremo per coloro che sono interessati. Sì, solo per loro, eh. Sì. Thank you.